Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. No, Salvini non ha nessun istinto suicida, sa benissimo che con il Movimento 5 Stelle non c'è nessun futuro. I grillini sposano qualsiasi idea per cambiarla subito dopo, non avendo valori radicati e seri in cui credere. I loro elettori, che sono certamente in buona fede, se ne accorgeranno presto. Questo pensa Silvio Berlusconi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, a proposito, diciamo, tra virgolette, degli ammiccamenti che il leader della Lega Salvini fa un po' ultimamente al Movimento 5 Stelle, dicendo che ci sono diverse convergenze su vari temi, quello della sicurezza, quello dei migranti, e però Berlusconi dice no, non può essere suicida in questo senso, anche se oggi Salvini fra l'altro aveva contestato un po' delle critiche molto pesanti che ieri Berlusconi aveva fatto porta a porta nei confronti del Movimento 5 Stelle. Questa comunque è la politica italiana, ci occuperemo di molte altre cose questa sera, a partire dall'emergenza siccità che sta riguardando diverse regioni italiane, in particolare l'Emilia-Romagna, con degli stanziamenti che sono stati fatti dal Consiglio dei Ministri per Parma e Piacenza. Ne parleremo e cercheremo anche di capire che previsioni ci sono meteo per i prossimi giorni. Forse davvero arriverà la pioggia la prossima settimana. E poi torneremo sul femminicidio di ieri, di cui abbiamo parlato nel Teramano, perché anche questa donna aveva, come tantissime altre, denunciato almeno due volte il suo persecutore, ma evidentemente le istituzioni, le forze dell'ordine, non sono state all'altezza, non sono state salvaguardarla adeguatamente. Poi molti altri temi, e sentirete anche dalle notizie principali varie sorprese, fra cui questa della bicicletta con le ruote quadrate, che era un problema, un vero problema, oggi presentato tra le tracce per la seconda prova dei maturandi allo scientifico. Parleremo anche di questo con un importante illustre matematico. 349-238-6666 per i vostri messaggi WhatsApp oppure i vostri commenti, come sempre, sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Quindi, prima di questi argomenti da approfondire, vi racconto brevemente la giornata. Emergenza siccità dal Consiglio dei Ministri, oltre 8 milioni per Parma e Piacenza, e la crisi idrica si fa sentire anche in Sardegna e in Veneto. Ordinanza a Roma della sindaca Raggi per evitare sprechi d'acqua. Monza, bambino malato di leucemia muore di morbillo, è stato contagiato dai fratelli non vaccinati. Il femminicidio nel Teramano, suicida lo stalker che avrebbe ucciso l'oncologa per la quale aveva un'ossessione, e nel genovese una donna ha ucciso il convivente per difendersi. Mi picchiava sempre, racconta, era stato denunciato due volte. La vicenda Brega Massone, la Cassazione annulla l'ergastolo al chirurgo della Santa Rita di Milano. Per i supremi giudici gli omicidi non sono stati volontari, pena quindi da rideterminare. Vertice europeo, accordo sulla difesa, ma l'Unione resta divisa sui migranti, Gentiloni chiede più impegno. Economia, secondo i dati Istat, il nord-est traina la crescita, recupera il sud. Delitto 90, 30 anni di carcere ai fratelli Sorgato, per Manuela Cacco 16 anni e 10 mesi. Maturità per la seconda prova, Seneca al classico, e allo scientifico spunta una bicicletta con le ruote quadrate. Partiamo quindi dalla crisi idrica in varie aree del nostro paese, in particolare manca l'acqua a Parma e Piacenza. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle due province. La crisi idrica è dovuta a un lungo periodo di siccità, a partire dall'autunno 2016, aggravato dalle temperature elevate, temperature estive, dai grossi afflussi turistici che hanno determinato un considerevole aumento delle esigenze idriche. A Roma la sindaca Raggi, per fronteggiare l'emergenza, ha firmato un ordinanza per limitare l'uso dell'acqua per annaffiare orti, giardini, riempire piscine e lavare auto fino a settembre. Qui vi dicevo, ne parleremo tra poco con la vicepresidente della regione Emilia-Romagna e anche con il nostro meteorologo per capire se c'è pioggia in arrivo per alleviare almeno questa situazione così critica. Vaccini, notizia che è arrivata poco fa: il bimbo di 6 anni, malato di leucemia, è morto oggi all'ospedale di Monza per delle complicazioni dovute a un'infezione da morbillo. Sarebbe stato contagiato dai suoi fratelli maggiori che non erano stati vaccinati. A confermarlo sono fonti ospedaliere. Secondo le fonti, la famiglia avrebbe preferito non far vaccinare i due figli più grandi, nonostante il più piccolo, proprio a causa della leucemia, avesse un sistema immunitario compromesso e quindi non potesse né essere vaccinato né difendersi contro eventuali infezioni. E proprio oggi botta e risposta tra il governatore del Veneto Luca Zaia e la ministra della Salute Lorenzin sul decreto vaccini. La posizione non è di essere contro i vaccini, confermiamo il ricorso sia sul decreto che sull'eventuale legge, se diventerà legge questo decreto. Non arretra di un passo il governatore del Veneto Luca Zaia sulla questione vaccini, forte dei numeri della regione, dove già senza l'obbligo di vaccinazione per l'iscrizione a scuola si è raggiunta una soglia che sfiora il 93%. Numeri a cui però ha ribattuto il ministro della Salute Beatrice Lorenzin dopo l'incontro avuto col governatore alla conferenza Stato-Regioni. Il Veneto ha registrato dall'inizio dell'anno 250 casi di morbillo, ha detto il ministro, e il 40% ha richiesto il ricovero, mentre il 35% ha avuto complicanze. E sul ricorso confermato da Zaia per l'incostituzionalità del decreto, nessun timore. Il Veneto, ha concluso il ministro, ha preso una cantonata. E per quel che riguarda eventuali miglioramenti al decreto, fermi restando i punti cardine scientifici, l'apertura è massima. Dal Parlamento io mi aspetto tutte le azioni di miglioramento, quindi per me c'è una posizione assolutamente laica rispetto a quelle che possono essere delle azioni di miglioramento del decreto. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il femminicidio nel Teramano è stato trovato impiccato in casa, in una casa al mare di Martinsicuro, in provincia di Teramo. L'uomo che avrebbe accoltellato a morte ieri l'oncologa Esther Pasquiloni, di 53 anni, uccisa ieri pomeriggio davanti all'ospedale di Sant'Omero. Si chiamava Enrico De Luca, 69 anni, ex investigatore privato. Nell'appartamento l'uomo aveva abitato in passato, ma sarebbe entrato violando la proprietà con un passepartout. Per gli investigatori è lo stalker che aveva dato fastidio per anni alla vittima. Poi torniamo su questo tema, vi dicevo, anche con la presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio. E oggi a Genova una donna ha ucciso a coltellate il convivente. Prima dell'intervento della polizia, la donna, di origini brasiliane, ha cercato di gettarsi dalla finestra. L'uomo che l'ha ucciso era stato denunciato e indagato due volte per maltrattamenti e lesioni nei confronti della compagna. E la vicenda Bergamassone, una notizia di pochi istanti fa, è stata annullata dalla Cassazione. La condanna all'ergastolo per l'ex primario di chirurgia toracica della clinica Santa Rita di Milano, Pierpaolo Bergamassone, per i supremi giudici non sono omicidi dolosi quelli dei quattro anziani portati in sala operatorio per interventi inutili. La Corte d'Assise d'Appello di Milano dovrà riqualificare l'accusa di omicidio escludendo la volontarietà e il dolo e riqualificare la pena per Bergamassone. È stato annullato il verdetto emesso quindi il 21 dicembre 2015 in appello. E arriviamo al vertice europeo. A Bruxelles è stata raggiunta l'intesa sulla cooperazione in materia di difesa e lotta ai foreign fighters, al terrorismo, ma per l'Italia resta centrale il tema dell'immigrazione. Difesa e sicurezza in primo piano al Consiglio europeo di Bruxelles con l'approvazione della cooperazione permanente strutturata, il fondo per la difesa e i battaglioni comuni. Per il presidente europeo Tusk quello sulla difesa è un passo storico. Tutti i paesi sono invitati a partecipare. Nei prossimi tre mesi sarà stilata una lista comune di criteri e di impegni, dice. Sul terrorismo invece intesa per approfondire gli sforzi contro i foreign fighters e per cooperare più strettamente con le industrie online. La prima sessione di lavori è stata preceduta da un bilaterale tra il presidente della Commissione Juncker e la premier britannica May. I negoziati sulla Brexit sono ufficialmente iniziati lunedì, ma i messaggi di apertura a Londra affinché consideri l'opportunità di tornare sui propri passi si stanno moltiplicando. In tal senso si sono espressi anche il presidente dell'Europarlamento Tajani e il nuovo Taoiseach irlandese Varadkar. L'attesa è forte affinché la Gran Bretagna chiarisca meglio i contorni delle sue proposte sui diritti dei cittadini europei che rimarranno oltremanica una volta che Londra avrà lasciato l'Europa. La Brexit offre un potenziale terreno di scontro per la due giorni di summit. Parliamo della ricollocazione delle due agenzie comunitarie attualmente basate in territorio britannico, quella del farmaco e quella bancaria. L'Italia si dice più ottimista in merito alle chance di Milano di aggiudicarsi la prima dopo le ultime modifiche apportate alle conclusioni del vertice. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come vi dicevo, non è stata quindi raggiunta, insomma, come da tempo, una vera intesa sui migranti. Paolo Gentiloni, presidente del Consiglio italiano, chiede più impegno sia dal punto di vista economico che sulle scelte politiche. E siamo all'economia, a trainare l'economia del paese, il nord-est, ma il mezzogiorno non delude più, anzi tiene alta la testa mentre il centro resta indietro. La mappa della crescita è tracciata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dall'Istat, che vede così in testa il Veneto, Friuli, Trentino ed Emilia-Romagna con un PIL in rialzo all'1,2% già nel 2016. Allora, a questo proposito sentiamo il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, intervistato da Sebastiano Barisoni. Le stime provvisorie diffuse dall'Istat questa mattina mostrano che nel 2016 il prodotto interno lordo è cresciuto nel mezzogiorno a un ritmo analogo a quello dell'insieme del paese, più 0,9%. Dopo 7 anni di calo, l'economia meridionale ha dunque ripreso a crescere nell'ultimo biennio. Non si tratta di dati esaltanti, certo, ma di importanti segnali di diffusione della ripresa all'insieme del Paese. La crisi del resto ha colpito con particolare intensità il Mezzogiorno. La manifattura in particolare ha subito un ripiegamento significativo. Eppure alcuni ambiti di specializzazione si sono mantenuti e in alcuni casi consolidati, anche in condizioni di domanda particolarmente negative e di una forte competizione di prezzo da parte delle economie emergenti. E siamo alla politica, mancano tre giorni ai ballottaggi per le elezioni amministrative. Si vota per i ballottaggi alle comunali e si guarda alle politiche. Il ministro della giustizia Andrea Orlando rilancia su un centro-sinistra con un'idea diversa da quella del segretario Dem Matteo Renzi. Propone un momento di confronto sul programma e anche sul metodo per la scelta della leadership. Costruire un centro-sinistra largo e plurale, dice il ministro, che sarà in piazza con Giuliano Pisapia per unire tutte le forze, rivedere la legge elettorale e non rassegnarsi alle larghe intese, che sembrano allontanarsi anche nel centrodestra, dove Matteo Salvini rilancia sui candidati sindaci della Lega con focus su sicurezza e lavoro. Su possibili alleanze il segretario del Carroccio non si sbilancia, per ora con Forza Italia, un domani chissà con i 5 Stelle, e per questo avverte Silvio Berlusconi: nessuna demonizzazione. Se uno prende milioni di voti può essere un avversario, puoi non essere d'accordo con lui, però dire che un partito è pericoloso mi sembra assolutamente sbagliato. Nel Movimento 5 Stelle Davide Casaleggio incontra i parlamentari in Senato per parlare di programmi, non di alleanze. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ritorniamo sulla cronaca. Delitto 90, condanna a 30 anni di carcere per Freddy Sorgato e per la sorella Deborah, 16 anni e 10 mesi per la loro amica Manuela Cacco. Sono le pene inflitte poco fa dal Tribunale di Padova con rito abbreviato nei confronti dei tre imputati. L'uomo era l'ex fidanzato della vittima, dell'omicidio premeditato e l'occultamento di cadavere di Isabella 90, impiegata di 55 anni, padovana, scomparsa la notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016, il cui corpo non è mai stato ritrovato. E oggi c'è stata la seconda prova della maturità 2017 per 500.000 di studenti. Ieri abbiamo parlato della prova d'italiano che era uguale per tutti. Oggi al classico Seneca, l'autore proposto al liceo per la versione di latino con un brano tratto dalle lettere a Lucilio. Nel brano l'autore parla del valore della filosofia e del bisogno che gli esseri umani hanno della filosofia, e poi a matematica, matematica, la prova di matematica, dove tra le tracce è spuntato fuori questo problema sulla possibilità di pedalare su una bicicletta a ruote quadrate. Poi sentiremo la possibile soluzione di questo problema con un matematico stasera nel corso di Effetto Notte. Chi ha elaborato questa traccia si è ispirato al museo di matematica, questo prototipo che c'è al museo di matematica di New York. Per chiudere parliamo di cinema. Prosegue con la firma di Ron Howard, vi ricordate i Ricky di Happy Days, la saga di Star Wars. Sarà Ron Howard a prendere le redini del prossimo capitolo della saga Guerre Stellari. La notizia è stata diffusa da Hollywood Reporter, secondo cui il regista premio Oscar è stato scelto dopo che la Lucasfilm e la Disney hanno licenziato Phil Lord e Chris Miller. I due registi hanno avuto divergenze di vedute con lo sceneggiatore Lawrence Kasdan. Il licenziamento ha fatto discutere Hollywood perché le riprese pare fossero già in fase avanzata, un caso quasi senza precedenti. Pare restino infatti solo 3 settimane e mezzo di set. Il prossimo film della saga avrà come protagonista Han Solo, è ambientato prima della trilogia originale e il personaggio principale sarà interpretato da Alden Ehrenreich. L'uscita è fissata per il 25 maggio 2018. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sull'onda di Guerre Stellari adesso ci fermiamo brevemente, mettiamo i piedi a terra per aggiornare chi sta viaggiando e poi ritorniamo naturalmente in trasmissione con i vari argomenti da approfondire con gli ospiti. Parleremo dell'emergenza siccità tra poco e poi ci saranno anche le previsioni meteo, sperando insomma qualche goccia di pioggia arrivi, perché si parla di parecchi soldi, insomma di 1 miliardo se non sbaglio, poi vado a rivedere i dati, di danni già per quanto riguarda l'agricoltura e gli allevamenti. Per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666 per i vostri messaggi e WhatsApp. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E rieccoci prontamente insieme, Roberta Giordano sempre con voi tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22 per questo viaggio attraverso le notizie principali della giornata, quindi la vostra colonna sonora della sera per essere costantemente aggiornati su quello che è successo almeno per quanto riguarda i fatti principali. Tra pochissimo parliamo, vi dicevo, della crisi idrica che sta interessando diverse regioni, diverse aree italiane, in particolare l'Emilia-Romagna. E poi parleremo anche di quelle che sono le previsioni almeno per i prossimi giorni, perché sembra che la prossima settimana forse le temperature potrebbero diminuire e potrebbe arrivare anche qualche goccia di pioggia, che è attesa con grande ansia soprattutto dagli agricoltori, allevatori, ma non solo naturalmente. 349-238-6666 per i vostri messaggi o WhatsApp, oppure potete continuare a scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte. Dice questo ascoltatore, Adriano da Padova, scrive: un paese amico, il Portogallo, in luto nazionale per 3 giorni per il pauroso incendio nei pressi di Leira, che ha causato 65 morti, 50 feriti gravissimi. La nostra stampa se n'è già dimenticata. In realtà, Adriano, abbiamo aggiornato sino a ieri, poi arrivano altre notizie, altrimenti dovremo stare insieme parecchie ore. Però hai fatto bene a ricordarlo, sono i cambiamenti climatici evidentemente che provocano queste tragedie, anche queste catastrofi. Per quanto riguarda l'Italia, ne parleremo, vi dicevo, tra poco, almeno per quanto riguarda la siccità. Questi i fatti principali di oggi. Per l'appunto, manca l'acqua, stato di emergenza a Parma e Piacenza, e a Roma ordinanza della sindaca Raggi, limitazioni per l'uso di acqua per giardini e piscine. E poi accordo storico in Unione Europea sulla difesa, stretta contro il terrore, più sanzioni nei confronti di Mosca, però divisi ancora sui migranti, e Gentiloni chiede su questo più impegno. Il PD alla prova dei ballottaggi, mancano 3 giorni, lite sulle alleanze, Salvini pare che corteggi un po' il Movimento 5 Stelle, Berlusconi lo avverte, Casaleggio a Roma per il rilancio del Movimento 5 Stelle e della Raggi. E poi, per quanto riguarda la maturità, Seneca è stato scelto l'autore per la versione di latino al classico, questa seconda prova della maturità, lo scientifico un problema sulla bici a ruote quadrate. Per quanto riguarda il femminicidio di ieri, nel Teramano si è impiccato il killer della dottoressa uccisa, il corpo dello stalker, 69 anni, trovato in una casa al mare. E poi, secondo i dati Istat economici, il nord-est, che traina la crescita dell'Italia più 1,2%, ma recupera anche il sud. E Carlo De Benetti che lascia Gedi la presidenza al figlio Marco. Quindi naturalmente vi sarete accorti che fa piuttosto caldo, un caldo torrido da diverso tempo che caratterizza il nostro clima da un po', ma soprattutto ci siamo anche resi conto che è un po' che manca la pioggia, che la pioggia latita, e i problemi cominciano a essere seri, poiché parte dell'Italia è a secco, il caldo africano fuori norma è in aumento almeno fino all'inizio della prossima settimana, poi ci faremo raccontare dal nostro meteorologo. E la siccità colpisce in particolare alcune zone del paese in modo più grave, tanto che il Consiglio dei Ministri oggi ha deliberato lo stato di emergenza per la crisi idrica nelle province di Parma e Piacenza. È solo in realtà la punta dell'iceberg, perché anche la Sardegna ha chiesto lo stato di calamità naturale, e il Piemonte ha il 65% di precipitazioni in meno rispetto alla media e ha decretato lo stato di massima pericolosità. Anche il Veneto soffre per la siccità, e a Roma, vi dicevo, la sindaca Raggi per fronteggiare l'emergenza ha firmato un'ordinanza per limitare l'uso dell'acqua per annaffiare giardini, lavare auto, riempire piscine. Insomma, le anomalie climatiche della prima parte del 2017 hanno già provocato alle coltivazioni e agli allevamenti danni per quasi 1 miliardo di euro, dicevamo, in particolare nel mirino del caldo e della siccità c'è l'Emilia Romagna. Allora saluto subito Elisabetta Gualmini, vicepresidente della regione Emilia Romagna. Buonasera. Buonasera. Gualmini. Buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Professoressa Gualmini, qual è la situazione effettivamente in Emilia Romagna? A proposito di danni, si leggeva in generale questo 1 miliardo di euro, però in particolare colpita tanto che il Consiglio dei Ministri oggi ha stanziato dei fondi, no, per questa emergenza. Esatto, oggi abbiamo avuto infatti una notizia molto importante. Noi in verità dal 16 giugno abbiamo dichiarato come regione lo stato di emergenza idrica per tutte le province della regione, però proprio contestualmente avevamo chiesto invece al governo di egli stesso insomma annunciare lo stato di emergenza, soprattutto sulle province più colpite dalla siccità, e in particolare Parma e Piacenza. Proprio oggi abbiamo avuto questa notizia, insomma ci saranno devoluti 8,650 milioni, che insomma una cifra consistente che potrà aiutarci sia a tamponare i danni che ci sono stati dal punto di vista ovviamente delle colture, dei terreni, e sia anche a portare anche tramite autobotti acqua alle popolazioni. Come regione noi avevamo già proposto delle deroghe, cioè la possibilità di raccogliere più acqua ai fiumi rispetto ai minimi che sono solitamente fissati per i due scopi, cioè per lo scopo idropotabile e per scopo di irrigazione. Quindi c'era comunque la possibilità da parte degli agricoltori e insomma delle diverse associazioni di chiedere queste deroghe, e siamo operativi su questo fronte, quindi spieghiamo molto chiaramente anche su tutti i nostri siti come fare. Però ecco, la notizia che il governo ci dà una mano ovviamente ci aiuta ancora di più. Anche se, dottoressa Gualmini, leggevo che l'allarme siccità nelle regioni italiane presenta anche un paradosso, no? Che è tipico del nostro paese, che è la rete degli acquedotti, che è un colabrodo. Viene perso circa il 40% di acqua, quindi quasi la metà, e le perdite maggiori si hanno al sud. Al primo posto ci sono Potenza e Palermo, sono dati dell'Istat. Lì come è stata in Emilia Romagna da questo punto di vista? Sì, conosco bene questa situazione, è vero che insomma l'acquedotto colabrodo purtroppo da tempo, da decenni, che caratterizza un po' il nostro paese, ed è vero in particolare le regioni del sud. Devo dire la verità, le regioni del nord da questo punto di vista sono in una situazione maggiormente gestibile e di maggiore efficienza, però stavolta la situazione è rovesciata, nel senso che in questo caso in particolare alcune regioni del nord stanno, a parte la Sardegna, ma comunque stanno particolarmente soffrendo. Quello che noi invece abbiamo notato, soprattutto nella nostra regione, è stato per esempio nel giro di un anno rispetto ad oggi un calo del 50% delle precipitazioni, cioè nel giro di un anno le precipitazioni si sono dimezzate. E tra l'altro, se questo fa il paio con temperature che da sempre, comunque già da alcuni anni, stanno aumentando significativamente, e quindi con anche le conseguenze di maggiore evaporazione e minor consumo tutto sommato, ecco, la situazione è particolarmente preoccupante. Jacopo scrive: Roberta, sono perdite contabili, non necessariamente fisiche, diciamo tutte e due. Però professoressa Gualmini, c'è il nostro Paolo Corazzon di Trebimeteo, così se lo sente anche lei, vediamo se ci sono delle buone previsioni rispetto buonasera, alla pioggia. Buonasera a tutti, molto bello questo intervento, anche molto tecnico, sull'aumento delle temperature e il calo delle precipitazioni, che purtroppo è uno degli elementi del cambiamento climatico che da tempo si sottolinea per l'area mediterranea, e ormai ci siamo dentro, quindi bisognerà pensare che in futuro purtroppo potremmo ricaderci varie volte in questa situazione. Adesso qual è il problema? Che noi speriamo nelle piogge estive, ma quanta pioggia volete che faccia d'estate in Italia? Quindi bisogna fare la danza della pioggia, Paolo. Brava, sono mancate le piogge invernali e primaverili, proviamoci con la danza della pioggia. Però ecco, per quanto riguarda l'Emilia Romagna, ma anche il nord Italia, effettivamente come dicevi, tra domenica e settimana prossima qualche temporale passa, quindi una tregua l'avremo, sia come temperature e appunto come precipitazioni. Il centro-sud rimarrà secco ancora per parecchio tempo, quindi insomma credo che non si risolverà a breve questa situazione. Incrociamo le dita, però è davvero critica. Sì. Paolo, però prima la dottoressa Gualmini parlava di una riduzione forte rispetto all'anno scorso, mi pare, del livello, quantità di pioggia, no? Sì, voi avete fatto uno studio su questo, il Trebimeteo. Esatto, se lo trovate anche sulla nostra homepage, guarda, è interessante, andate a vedere. Abbiamo confrontato varie città italiane quanto ha piovuto dal 1° gennaio a oggi rispetto alla media, e siamo in tutta Italia sotto media, e appunto il nord, la Sardegna e le regioni tirreniche anche molto sotto media, ha piovuto un terzo del dovuto, quindi davvero situazione critica. Il Po fa paura ai livelli che dovrebbe avere a fine estate, non a inizio estate, quindi davvero incrociamo le dita, non c'è altro da fare. Incrociare le dita. Professoressa Gualmini, quindi ha sentito. Senta, le faccio una domanda a bruciapelo che fa un ascoltatore, lei non è tenuta a saperlo. Allora Sandro dice: a proposito di Emilia Romagna, Igor il russo, il serbo, che fine ha fatto? Lei sa qualcosa di che fine ha fatto? No, io sono informata, nel senso che ancora non si sa ai noi dove sia, e quindi continuano le indagini, continuano, per cui ci sono ancora le forze dell'ordine. Sembra imprendibile. È passato davvero molto tempo, quindi la domanda che ci si fa è: sarà ancora davvero lì? Ancora lì? Oppure se già ancora da altre parti? Insomma. Intanto speriamo nella pioggia, allora, grazie. No, infatti confermo che anche i dati della ARPA dicono che una precipitazione ci dovrà essere, insomma, tra domenica e giovedì, per cui speriamo. Preparate gli ombrelli, allora, dottoressa Guelmini, grazie, vicepresidente grazie della Regione Emilia Romagna. Ricordo, grazie a Paolo Corazzon, ci risentiamo domani, Paolo. A domani, grazie, con ulteriori buon tempo a tutti. Aggiornamenti, buon tempo a te, e direi che per il momento possiamo fermarci, prenderci proprio una pausa di ricreazione. Per i vostri messaggi 349-238-6666 oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Dice Robert da Carpi: per la siccità attribuisco una buona percentuale di colpa all'uomo che, a forza di cementificare, costruire industria più non posso, ha fatto sì che il clima subisse un cambiamento. Beh, insomma, questo ormai ci sembra chiaro, al di là di quelli che dice sono gli allarmisti che dicono queste cose. Beh, basta guardarsi intorno in Italia, nel mondo, e capire che il clima è cambiato, e ovviamente la mano dell'uomo, degli esseri umani, ha inciso non poco. Anzi, a tra poco. Musei a cielo aperto, gioielli dell'arte e della natura da vivere, ma anche da preservare. Da Firenze a Venezia, da Roma alle Cinque Terre, ci si interroga. Come conciliare il turismo di massa con il decoro e la sicurezza del territorio e delle opere d'arte? Venezia pensa al numero chiuso, Firenze bagna le strade. E gli altri nel mondo che fanno? Un viaggio tra arte, natura e rispetto, in onda dal 26 al 30 giugno nel GR delle 7. E un reportage dedicato sabato 1 luglio alle 7:15 su Radio 24 e su radio24.it. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberto Giordano. Allora ci riprendiamo con le altre notizie da approfondire. Abbiamo appena parlato dell'emergenza siccità che riguarda diverse aree italiane, ma in particolare l'Emilia Romagna. Per le province di Parma e Piacenza abbiamo sentito con la vicepresidente della Regione Emilia Romagna, Elisabetta Guelmini, che il Consiglio dei Ministri ha deliberato un piano di finanziamenti di oltre 8 milioni di euro, e al momento sembra che a livello di danni, sia nell'agricoltura che per gli allevamenti, ci siano per la siccità in Italia, questa è la denuncia di Coldiretti, almeno 1 miliardo di euro di danni. Adesso invece cambiamo completamente argomento, ritorniamo tra pochissimo sul femminicidio di ieri, uno degli ennesimi, uno dei tanti purtroppo, no? Visto che la strage delle donne continua, anche se qualche uomo dice avete visto, oggi una donna ha ucciso un uomo, intanto l'ha ucciso dopo che era stato denunciato più volte per maltrattamenti, certo non è una giustificazione, succede che una volta ogni morte di papa una donna decide di ribellarsi disperata in quel modo. Allora subito qualcuno prende l'occasione per dire vedete che anche le donne, come dire che le mosche sono nere, ci sono anche quelle bianche, è un'eccezione rarissima al mondo, allora le mosche sono bianche. Ne parleremo, dicevo, tra pochi istanti. Intanto vi ricordo, per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio, oppure il numero per messaggi WhatsApp, che è 349 238 6666. C'è già Walter che propone una soluzione per la traccia allo scientifico sulla bicicletta con le ruote quadre, e poi capiremo se è la soluzione giusta con un matematico più tardi. Mentre sull'argomento di poco fa, sulla siccità, c'è questo ascoltatore, che Emanuele, che dice: chiudono la stalla dopo che sono scappati i buoi, bisogna creare invasi artificiali per raccogliere gli eccessi d'acqua invernali, e come abbiamo visto prima bisogna anche mantenere, fare manutenzione per quanto riguarda gli acquedotti, visto che in Italia la perdita d'acqua dagli acquedotti che sono colabrodo è almeno del 40%. Ma adesso vi ricordo le notizie principali. Emergenza siccità, dal Consiglio dei Ministri oltre 8 milioni per Parma e Piacenza, e la crisi idrica si fa sentire anche in Sardegna, in Veneto, in Piemonte. Ordinanza a Roma della sindaca Raggi per evitare sprechi d'acqua. Monza, bambino malato di leucemia muore di morbillo, è stato contagiato dai fratelli non vaccinati. Il femminicidio nel Teramano, ne parleremo tra pochissimo con lo stalker che si è ucciso oggi. la vicenda Bregamassone, la clinica degli orrori, vi ricordate la Santa Rita di Milano, la Cassazione annulla l'ergastolo al chirurgo per i supremi giudici, gli omicidi suoi non sono stati volontari, la pena è da rideterminare. Vertice europeo, accordo sulla difesa, ma l'Unione resta divisa sui migranti e Gentiloni chiede più impegno. Economia, secondo i dati Istat, il Nord-Est traina la crescita, recupera però anche il Sud. Delitto 90, 30 anni di carcere ai fratelli Sorgato, per Manuela Cacco 16 anni e 10 mesi. Maturità per la seconda prova, Seneca il classico e allo scientifico spunta una bici con le ruote quadrate. Dicevo, ritorniamo allora sul femminicidio di cui abbiamo parlato ieri, uno dei tanti in questa incessante strage di donne uccise per mano maschile, dal marito, ex marito, compagno, compagno o da un persecutore, come in questo caso, un persecutore ossessionato dall'idea di avere quella donna per forza, sempre per un delirio di possesso, un delirio di onnipotenza sulle donne. L'ultimo caso, appunto, quello di Esther Pasqualoni, 53 anni, aveva due figlie, era responsabile di un day hospital oncologico all'ospedale Santomero nel Teramano, in Abruzzo. È stata accoltellata alla gola, l'abbiamo raccontato ieri, davanti all'ospedale dove lavorava. Ad accoltellarla un uomo che la perseguitava da tempo, era ossessionato da lei e lei lo aveva già denunciato due volte. Il killer, la novità di oggi degli aggiornamenti, il killer di Esther, Enrico De Luca, 69 anni, oggi si è suicidato, ma ci racconta la vicenda, gli ultimi aggiornamenti, la nostra Evelina Frisa da Teramo. Buonasera Evelina. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, sicuramente sì, è proprio così, è stato trovato morto suicida nel suo appartamento a Martinsicuro in provincia di Teramo, Enrico De Luca, 69 anni, ex investigatore privato, che da ieri era ricercato proprio per l'omicidio di Esther Pasqualoni, la dottoressa di 53 anni, responsabile del day hospital oncologico all'ospedale di Santomero. La donna è stata uccisa, lo ricordiamo, a coltellate ieri pomeriggio intorno alle 16 nel parcheggio retrostante la struttura sanitaria, non lontano dall'abitazione proprio dell'uomo. Carabinieri e polizia erano sulle tracce di De Luca, alcuni testimoni avevano visto una Peugeot bianca allontanarsi dalla zona del delitto poco dopo l'aggressione, auto che già nella notte era stata ritrovata nel parcheggio condominiale dell'abitazione dell'uomo con delle macchie di sangue all'interno. Per uccidersi De Luca ha utilizzato la spalliera del letto e si è strangolato con una fascetta elettrica autostringente. Dovrebbe trattarsi proprio dello stalker che la donna aveva denunciato ben due volte, denunce che poi erano state archiviate, fatto questo che ha ovviamente fatto discutere molto. E questo dunque è l'epilogo dell'ennesimo femminicidio che si è verificato, la vittima era vedova e lascia due figli minorenni. Per il momento da Teramo è tutto. Grazie Evelina Frisa. E su questa ennesima morte annunciata, vi ricordate che avevamo parlato giorni fa della sentenza della Corte d'Appello di Messina che aveva condannato i magistrati che lasciarono nella possibilità di agire un uomo violento che era stato denunciato dalla moglie ben 12 volte, in questo caso quello di ieri due volte, in quel caso 12 volte, e ogni volta se ne è dovuta tornare a casa, la questione era stata archiviata, poi il marito l'ha uccisa. Allora mi rivolgo all'onorevole senatrice Francesca Puglisi, che è presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio. Buonasera senatrice Puglisi. Buonasera a voi. Allora, sembra possibile che, si dice le donne non denunciano e spesso si sa che è difficile, che sperano che gli uomini cambino, hanno paura loro stesse magari di ulteriori ritorsioni, si sentono smarrite, non sanno cosa fare. Quando poi denunciano, la stessa Amnesty oggi è intervenuta dicendo l'ennesimo caso di una vittima che tenta ripetutamente di ottenere la protezione delle forze di polizia e della magistratura senza riuscirci. Sì, è un fatto molto grave quello che è successo a Teramo, l'ennesima morte annunciata, l'ennesimo femminicidio che purtroppo si è consumato per denunce che non sono state ascoltate. E crediamo che sia ora di dire basta e crediamo che la magistratura innanzitutto abbia il dovere di seguire le indicazioni del CSM date già nel 2010 con la creazione di pool specializzati sulla violenza di genere e il femminicidio e soprattutto un coordinamento attento tra centri antiviolenza, telefono rosa, il 1522 che raccoglie appunto le denunce spesso di moltissime donne che subiscono violenza domestica o stalking come nel caso della dottoressa Pasqualoni. E le procure devono fare un'attenta valutazione del rischio, le forze dell'ordine, un'attenta valutazione del rischio per far scattare immediatamente tutte quelle protezioni, quelle misure di protezione che grazie anche ad un decreto, quello del 119 del 2013, oggi è possibile appunto applicare. E quindi ecco, davvero l'Italia, come ricordavate voi, non solo c'è stata questa sentenza storica delle magistrate, che io voglio ringraziare anche pubblicamente per aver condannato la procura di Caltagirone e lo Stato a risarcire gli orfani di quel femminicidio. Ecco, ma quella donna che l'ha denunciato 12 volte, no? C'è la Corte d'Appello di Messina, esatto, ha condannato i magistrati che insomma, esatto, si girarono dall'altra parte, evidentemente, dopo 12 volte. Esattamente, esattamente, ma c'è già stata proprio nel 2017 la sentenza che della Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo, che ha condannato l'Italia per il caso Talpis, altra donna che aveva denunciato le violenze dell'ex partner, di cui poi è rimasto vittima il figlio, oltre che lei che aveva subito una coltellata. Quindi il compito della commissione d'inchiesta che presiedo è proprio quello di andare a verificare innanzitutto se le norme che abbiamo realizzato durante questa legislatura, abbiamo iniziato nel 2013 con la ratifica della Convenzione di Istanbul, immediatamente dopo il decreto sul femminicidio, innanzitutto che garantisce a tutte le donne, a prescindere dalle proprie condizioni reddituali, di accedere al patrocinio gratuito, ma soprattutto che inserisce nell'ordinamento aggravanti importanti per i reati, come per esempio quello della violenza assistita da minori, l'allontanamento del partner dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento, insomma un decreto che gli stessi giudici ritengono, gli stessi operatori di giustizia, quindi, senatrice Puglisi, comunque utili. E come mai però si continua? Allora, sicuramente intanto, come diceva lei, fondamentale in particolare una formazione, un lavoro sulla formazione delle forze dell'ordine e della magistratura, perché troppo spesso sottovalutano questo, esperienza di molte donne che dicono di andare alla caserma dei carabinieri o alla polizia, poi qualcuno magari una pacca sulla spalla, via, torni da suo marito, vedrà, è solo un po' nervoso, eccetera. Non si può prendere così sotto gamba, no, delle denunce di maltrattamenti. No. Ecco, quindi ci vogliono dei corsi di formazione per forze dell'ordine e magistratura, e poi delle politiche di protezione, in particolare di prevenzione, anche la famosa educazione alla parità di cui si parla tanto, che dovrebbe essere introdotta nelle scuole. Sì, l'abbiamo inserita sempre durante questa legislatura, c'è un buon numero di donne in Parlamento e quindi siamo attenti a questi temi. Nella legge 107 la famigerata buona scuola contiene il comma 16, che è molto importante, dice alle scuole che devono inserire nei piani triennali dell'offerta formativa delle azioni di educazione di ragazzi e ragazze, non solo alla parità dei sessi, ma anche appunto alla prevenzione della violenza di genere. Ci sono risorse stanziate anche per la formazione dei docenti e anche per la formazione e l'educazione delle famiglie. Quindi un'azione molto importante, come ci insegna la Convenzione di Istanbul, serve un'azione integrata che vada, come sta facendo bene il piano nazionale straordinario contro la violenza di genere fatto nel 2015 dalla ministra Boschi. Bisogna innanzitutto cercare di investire, come lei diceva, risorse per la formazione degli operatori delle forze dell'ordine, gli operatori di giustizia. Serve soprattutto un'attenta valutazione del rischio, certo, ovvero quando una donna si presenta in un pronto soccorso o a sporgere querela va fatta un'attenta valutazione del rischio, perché ci sono gli strumenti, ci sono dei protocolli internazionali come quello SARA si chiama, che appunto aiuta gli operatori a riconoscere l'effettivo rischio, e le vittime ad alto rischio devono essere protette. Senatrice Puglisi, sono ottime parole e ci sono delle ottime intenzioni, speriamo che veramente, e la politica ha una sua responsabilità in questo, bisogna passare ai fatti il prima possibile. È per questo che è nata la commissione d'inchiesta, perché proprio vogliamo analizzare in profondità ciò che sta accadendo nella società italiana e dare delle indicazioni al futuro Parlamento, al futuro governo, per fare anche ciò che serve perché le donne possano vivere libere. Contiamo su di lei e sulla sua commissione d'inchiesta, allora, senatrice Francesca Puglisi, sulla politica tutta. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Grazie, viabilità. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com. Vi presento. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre con voi Roberta Giordano, adesso vi ricordo le notizie più importanti, visto che abbiamo fatto una pausa. C'è qualcuno che dice, un po' complottista, Sandro, a proposito della siccità di cui abbiamo parlato all'inizio: scusate, ma quest'anno nel centro-sud è nevicato molto, dov'è finita l'acqua del disgelo? Che i politici italiani la sottraggano per gli usi dovuti, per rivendersela come elettricità. Sandro, questo mi sembra veramente un po' troppo complottistico. Comunque, tra poco parliamo di un problema serio, di una bicicletta con le ruote quadrate. Vi ricordo che i titoli principali riguardano appunto l'emergenza siccità in Italia, tanto che dal Consiglio dei Ministri oggi sono arrivati 8 milioni di euro per Parma e Piacenza, e poi la crisi idrica si fa sentire anche in Sardegna, Veneto, Piemonte e a Roma, ordinanza della sindaca Raggi per evitare sprechi d'acqua. Un bambino malato di leucemia è morto a Monza di morbillo, è stato contagiato dai fratelli non vaccinati. Il femicidio nel Teramano, di cui abbiamo parlato poco fa, suicida lo stalker che ha ucciso l'oncologa per la quale aveva un'ossessione. La vicenda Brega-Massone della clinica cosiddetta degli orrori a Santa Rita di Milano. La Cassazione annulla l'ergastolo al chirurgo primario di quella clinica. Per i supremi giudici gli omicidi non sono stati volontari, quindi la pena è da rideterminare. Vertice europeo, accordo sulla difesa, ma l'Unione resta divisa sui migranti. E poi l'economia, secondo i dati Istat, il nord-est traina la crescita, recupera il sud, maturità per la seconda prova, ne parliamo adesso. Ieri, se vi ricordate, commentavamo le tracce, così un po' a sorpresa per la prova d'italiano, prima prova dei maturandi di quest'anno, tra cui questa traccia sul poeta Caproni, morto nel 1990, che più del 90% dei ragazzi non conosceva, e poi il boom economico, anche il boom economico, questi ragazzi che oggi hanno 18 anni non l'hanno mai conosciuto, vabbè, possono naturalmente saperne qualcosa, probabilmente il loro programma scolastico non è arrivato fin lì, ma non meno sorprendente oggi è qualcosa che riguarda la seconda prova per i maturandi, classico Seneca, un brano di Seneca, autore proposto al classico per la versione di latino, mentre allo scientifico fra le varie tracce è spuntata anche quella di un problema molto problematico, perché si parlava della possibilità di pedalare su una bicicletta con le ruote quadrate, ispirato questa bici a un'installazione esposta nel Museo della Matematica di New York. Allora chiedo subito l'intervento del matematico, logico e scrittore Pier Giorgio Di Freddi. Buonasera professore. Buonasera a voi. Allora, prima domanda che mi viene in mente è: secondo lei che si sono mangiati, oppure che tipo di incubi hanno fatto notturni coloro che hanno elaborato questa traccia per gli studenti, secondo lei? Ma sa, in realtà non è mica una scoperta recente, perché addirittura gli egizi già sapevano che loro facevano templi, no, per esempio, sì, di cui l'Egitto è ancora pieno oggi, no? E alcuni di questi templi, molti in realtà, no, avevano delle pile invece che a sezione rotonda, a sezione quadrata, no? Ora, all'epoca naturalmente queste pile bisognava tagliarle nelle cave della pietra, no? E poi portarle sul luogo, no? Ora, se una pila è rotonda, la si può far rotolare, no? Ovviamente, no? E quindi, insomma, con un po' di schiavi effettivamente si può fare. Ma se una pila è quadrata non è mica semplice, perché ovviamente bisogna farla rotolare così, no? Ma c'è sempre il rischio di tenerci sotto le dita, no? Ovviamente, soprattutto quando sono carichi enormi. E allora gli egizi si erano inventati questa cosa interessante, avevano preso dei tronchi, no, rotondi, grossi, no, e l'avevano tagliati in quattro, sezionati in quattro, di modo che venissero dei quarti di cerchio, no? E poi poi stendevano questi legni sul terreno e si erano accorti che mettendo questi legni e facendo rotolare le pile con diciamo gli spigoli, no, dentro le congiunzioni di questi archi di cerchio, le cose funzionavano. Ora, quella non è la soluzione corretta, perché in realtà non si devono usare degli archi di cerchio, ma archi di una curva che è leggermente più complicata, che si chiama catenaria. Si chiama catenaria semplicemente perché se uno prende una catena, ad esempio quella degli orologi da taschino, o comunque una catena qualunque, no, e la sospende tenendola tra le dita, no, due mani vicine, e questa catena si dispone secondo una curva che sembra una parabola, ma che si chiama catenaria perché è leggermente diversa. I matematici, secoli fa, hanno scoperto che effettivamente quello è il modo migliore: invece di usare degli archi di cerchio si usa una catenaria. Professore, mi perdoni se la interrompo, ma secondo lei, siccome io ho capito ben poco di quello che ha detto, allora solo lo ripeto. No, aspetta, aspetta. Allora mi chiedo, questa traccia che hanno dato è stata più fantasiosa o più sadica? Perché secondo lei i ragazzi iniziali, perché spesso la matematica fa questo effetto, no? Uno si vede davanti delle cose assurde, no? Poi però ci pensa un minutino e dice: ah, guarda, tra l'altro bisogna sottolineare questo fatto, che non è che si chiedeva al ragazzo di dire qual era la curva giusta, no? per far rotolare la ruota quadrata, ma si diceva: questa è la curva giusta e tu verifica che lo è. Quindi era semplicemente una verifica non particolarmente difficile, anzi, benché quella curva che ho detto prima, no, la catenaria, che tra l'altro poi è ben nota perché per esempio i ponti sospesi, no, si dispongono automaticamente, no, secondo quella curva, no? Quindi la si vede spesso in giro per il mondo, solo che uno non la nota, no? Professore, siccome mi sta venendo un po' di mal di testa, allora Walter dice: devono ruotare le ruote quadre su una superficie multicircolare dove ogni circonferenza a diametro pari alla diagonale della ruota. Ho vinto, chiede Walter, mi dica solo questa cosa, poi dobbiamo lasciare. Non ha vinto Walter. Non sono l'intento, sarà più fortunato. Dico, no? Infatti quella era la soluzione degli egizi, che pensavano che fossero dei pezzi di circonferenza, no? Degli archi di cerchio. La cosa è un po' più complicata, bisogna usare queste curve. Ci ritorniamo. Sono curve descrivibili molto semplicemente da un punto di vista matematico. Ci ritorniamo, professor Di Freddi. Mi stanno dicendo che devo lasciare, mi rimane il dubbio, ma ci sentiremo. Grazie professor Di Freddi, e ci risentiamo alle 22.